Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ho strappato l'INPS. Non pagate più niente. Come faccio io? Non pagate più niente. Dobbiamo venire qua subito al voto. Subito al voto. Ora ci organizziamo. Subito al voto, amici. Subito. Vergogna! Vergogna. Fitusi. Che vedere il Ducatino di Paranzo. Che lui l'Indisi se lo paga facendosi dire cornuto, cretino, coglione, deficiente, pezzo di merda, e non se lo paga lui, ma glielo pagano per farsi dire queste parole. Quella dell'Indisi, l'Indisi, cretino, l'Indisi, quella ragazza era disperatissima, perché l'Indisi se lo paga lei con i suoi soldi, non facendosi dire coglione, cretino, pezzo di merda, frunzo, bestia. Lo capisci tu questo, cretino, che prendi in giro le persone che lavorano, cretino? Non lo capisci? Io sono di Catania. Vieni e ti facciamo un culo tanto. No, papà, che tu che se ne mandò a camera a cercare i buttani. Scimunito, tu stai parlando con uno di Catania, pagliolo. Stai parlando con uno di Catania, scimunito. Pezzo di gay e puffo così, cretino. Lorenzo, sentimi bene, coglione. Tu che dici lei del brutto a me? Tu intanto non hai occhi verdi come ho io. Primo, coglione. Non hai ricci come ho io, coglione. E io ho cominciato a diventare grigio a 53 anni, 54. Tu a 43 eri già grigio, perché nel 2009 quando andavi a rompere i coglioni a Tele Lombardia e ti facevi inquadrare dal basso verso l'alto per sembrare più alto, naro di merda, pure ebreo schifoso, eri già grigio, coglione. Quindi cosa dai del brutto a me che mi tingo? Perché tu che cosa fai, imbecille? Te ne tingi che tu, idiota! È un coglione, pensi che non mi ricordo che eri già grigio? Sfigato, eri già grigio a 43 anni, sfigato! Io a 53, 54, tu a 43, sfigato, incapace, croccio, e non ci prendi con le donne, neanche pagarle, idiota! Idiota! Mai svegliare il can che dorme, Davide. Cane, hai svegliare... detto molto. Hai detto molto bene, il cane. Mai bene. Svegliare il can che dorme. Tu sai che io sono per i diritti degli animali e infatti non gli metto la museruola. Io avevo, quando ero ragazzino a Padova, avevo un cane che si chiamava Cocker, che si chiamava Cocchi. Tu dirai Cocker, Cocchi, no? Un nome non molto originale, comunque vabbè. Sì, certo. No, però tu mi dirai perché mi racconti questo. Sì. Solo per dirti che anche al mio adorato Cocker non mettevo mai la museruola, quindi non la metteremo neanche a quel cane brutto, grasso, sporco, dai capelli tinti di Mauro Davanti. Anzi, ancora più forte, dopo quello che ho sentito, lo abbraccio al petto come si fa con i bambini quando piangono tantissimo e gli faccio sentire tutto il mio amore. Lo abbraccio con i miei maglioni di cashmere regalatemi da Rothschild. Lo abbraccio con i miei maglioni. Poi lo butto via, ovviamente, il maglione di cashmere, perché dopo un abbraccio con quel sudato di Mauro Davanti è meglio buttarlo via, ma intanto con il mio maglione quattro fili di cashmere lo abbraccio forte al petto. Perché tu sei riccione, tu sei. No, questo no, però. Allora, ragazzi, questa però è la giornata. Dobbiamo parlare di una cosa seria, però, questa seria, volta. Molto. Una cosa molto seria. Molto, io non terribile. So cosa ti attende domani, caro David, nella sede di Casa Pound. Sì, nella sede di Casa Pound. Vogliamo annunciare definitivamente. Sono atteso quello che è successo nelle ultime ore, poi spiegheremo perché. Domani David Parenzo si presenterà comunque. comunque nella sede di Casa Pound per questo confronto. Mi accompagnerai alle 20:50, finita la diretta radiofonica, mi accompagnerai anche tu in macchina, perché questo è l'accordo. È l'accordo. Sì. Darai un saluto anche tu e poi proseguirai, perché poi vai a ritirare un premio. Vabbè, d'accordo, diciamolo. Non ne parleremo. No, non ne parleremo più avanti. Vabbè, però tu domani sarai all'inizio con me lì e sarai lì e quindi mi accompagnerai tu lì direttamente. Mi sembra di capire che ci sarà un nutrito e una nutrita presenza della polizia italiana. Non lo so, delle forze motivo. Dell'ordine. Comunque, delle forze non c'è motivo. Comunque confermo, ragazzi, discuteremo domani... di tutto. Viva la dialettica, discuteremo di tutto. Io un credo che discutere... Civile e pacato, ma fermo. Credo che discuterete anche della cosa che è accaduta ieri, riportata oggi a Ostia. Allora, molti di voi magari lo sanno, però la maggior parte delle persone che sono collegate, ragazzi miei, stanno sulla macchina, lavorano, non è che stanno sul computer come noi, per cui magari non lo sanno. C'è un signore che si chiama Roberto Spada e che si è fatto la foto con il candidato di Casa Pound a Ostia, foto che risale a 18 mesi fa, e ha detto che avrebbe votato questi signori di Casa Pound. Questo signore si chiama Roberto Spada ed è il fratello di uno condannato a 10 anni, viene considerato il referente del clan Spada, del clan Spada, clan mafioso Spada a Ostia. Questo tizio si chiama Roberto Spada, ha dei piccoli precedenti ma non ha condanne. Sì, lui. Questo Spada, questo Roberto Spada. Sì, questo Spada ha dei precedenti. Sì, tu sei. Beh sì, formalmente cioè, piccoli precedenti, ma non è cresciuto alla scuola liberale il signor Spada. Lo ha dimostrato oggi perché durante un'intervista fatta... Ma lo avranno arrestato, io immagino. Secondo me lo stanno per arrestare, questa è la mia... Almeno un fermo di polizia, qualcosa, immagino di sì. Me lo auguro. O anche qui vuoi essere garantista, caro Croce. Dovrebbe andare in galera dopo quello che è successo. In galera mi pare evidente la prova, violenza. Poi col bastone, lo hai seguito col bastone. Gli ha tirato una capocciata addosso al naso, sul naso, gli ha tirato una capocciata sulla e poi l'hai seguito con un bastone. L'ha continuato a picchiare con un bastone. La cosa meravigliosa è la giustificazione. No, stiamo parlando di una vera e propria aggressione che è stata fatta a un giornalista della trasmissione Nemo, il quale è andato là per fargli delle domande legittime domande, sempre legittime. Anche l'insistenza è legittima, anche rompere i coglioni è legittimo, diciamolo, perché la giustificazione di questo tizio, che si chiama Roberto Spada, ripeto, è stata questa. Poi ha chiuso i social, nel senso non ha cancellato questo commento, eccetera. Perdonatemi, comprendo e rispetto il lavoro di tutti. Dopo un'ora e mezza di continuo non voglio rilasciare nessuna intervista, entrava forse in un'associazione per soli soci. A parte che non è vero, entrava a forza, che hanno fatto col carro armato, come sono entrati? No. Saranno entrati coi piedi le telecamere, no? Cioè, che a forza di che? Disturbando una sessione, spaventando mio figlio. Voi che avreste fatto? Negli ultimi 10 giorni sono venuti almeno 30 giornalisti a scoglionare. La pazienza ha un limite. Ora, ragazzi, se uno è insistente, se uno entra dentro a fare il suo mestiere, può essere un rompicoglioni, ma non è che gli dai la testata in faccia e lo mandi all'ospedale con la rottura del setto nasale, ragazzi. Ma di che stiamo parlando? Che siete matti? Questo va arrestato subito. Vai. Qua perché i giornali, e tu l'hai letti, scrivono il clan Spada con Roberto Spada sostengono Casa Pound. Il sostegno degli Spada ha fatto prendere a Casa Pound il 18% a Nuova Ostia. Ma Casa Pound può cambiare cosa a Nuova Ostia? Solo questo. Non lo so, ho problemi vostri, lo sapete voi. Tu pensi che sì, l'hai scritto. Ma sono problemi, tu lo sai. La tua speranza però è che con Casa Pound cambi qualcosa. Non me ne fotte in cazzo, non me ne fotte niente. Oh. Bom. Ma è rotto il naso. Sono 2 ore che sta qua. Fermo, mi hai rotto il naso. Ma è rotto il naso. Dai, lascialo. Ma è rotto il naso, dai, basta. A brutto un po'. Ma me ne vado se me lo dici, no? Ma basta se me lo dici con calma, me ne vado. Guarda che mai fatto, cazzo. Ma è rotto il naso. Ragazzi, ma che bisogna dire di fronte a queste cose? Non c'è niente da dire. Cioè, no, da, cioè da semplicemente da fare intervenire quelle adorate macchine o blu e bianche con sopra oppure una luce anche, blu, oppure anche nere. Oppure, bravissimo, le gazzelle nere e rosse con una luce rossa sopra. E questo, non c'è altra alternativa, no? Ci sono due tipi di macchine che possono intervenire: o rosse e nere, sì, oppure sì, blu e bianche. Sì. Che non è la Lazio, non sono macchine della Lazio, ma sono macchine della Polizia di Stato, amico mio, che arrivano anche suonando: Nino, Nino, fermo, scusi, rischio spada, sì, sono io, prego, ci segua, boom, via. No, no, non c'è, non c'è da ridere, non c'è mediazione alcuna. Credo, macchine, credo, ripeto, rosse, sì, o nere o bianche e blu, credo, con delle luci sopra, meravigliose, le luci, le luci, qua, le luci, se non si accendono è uguale, no, no, no, no, no, con le luci anche il rumore ci deve essere, per tutta ostia, Nino, Nino, le luci, ci devono essere le luci sopra, perché bisogna far vedere la presenza dello Stato, no, no, no, lo dico in modo iperbolico, se vuoi andate a vedere cosa allora vuol dire la parola iperbolico, ma lo, le luci e la musica, Nino, Nino, eccoci qua, lei si ho spada, sì, prego, ci segua, dun, via. Allora ragazzi, la cosa incredibile è che quando il signor Spada ha, sì, pubblicato quella sua reazione, signor Spada, vabbè, ma così per pigliarlo per il culo, signore, signor Spada ha pubblicato, ma non so se ti conviene, ma, sai, no, ma non me ne frega niente di Spada, a me sono grandi cazzo che vuole. Ma face, sì, ma ascolta benissimo, su, ragazzi, hanno scritto, io su sono, io ospito chiunque, io ospito in questa trasmissione, hanno, chiunque, però, gli Spada l'abbiamo già intervistato, detto, ascoltiamo Cruciani, ci piace sempre, sì, ma io l'ho intervistato Spada, l'abbiamo intervistato noi due insieme un anno fa, un anno e mezzo fa, mi ricordo perfettamente, ma il problema non è questo, uno può avere tutte le idee del mondo, amico mio, la testata no, però, cioè le mani, la violenza no, ma di che parliamo? Dai, su, è una cazzata. Comunque una cazzata. Questo qua va messo, no, in galera, sì, sconterà, ci sono da 3-7 anni per violenza aggravata, non so che cos'è. Se uno fa una cazzata, punto. Allora, appena pubblicato quello che vi ho appena letto, perdonatemi, rispetto il lavoro di tutti, ma questo qua no, ha disturbato una sessione, la pazienza ha un limite, testata, avete sentito, testata. Ci sono stati dei commenti. Ve ne leggo due. Un tale Renato Masetti, perché bisogna fare nomi e cognomi, sì, Renato Masetti, sì. Bisogna farsi tanti, amici in, sì, giro. Gliel'hai fatta, sì, tu l'intervista, Roberto. Gliel'hai fatta tu l'intervista, chi è Roberto, questo, come si chiama? Renato Masetti. Gliel'hai fatta, c'è tu una macchina disponibile bianca, aspetta, e blu per prima delle, no, macchine, capito? Chiedo gliel'hai solo fatta tu lo Stato. E cosa ti devo dire? Aspetta, questo che c'entra, questo è un coglione, basta. Gliel'hai fatta tu l'intervista, Roberto. Hai fatto bene per come sono andate le cose. Hai fatto bene. Un tale, un altro che si chiama Umberto, Irina Umberti, in realtà Irina dovrebbe essere la fidanzata. Comunque, hai fatto bene, giornalisti terroristi, è stato assassino. Poi, che c'entra che mettono in mezzo tuo fratello Carmine? Me fanno schifo ste merde, scusate il mio linguaggio, ma quando ce vo, ce vo. Anno, hai fatto bene, dice quest'altro. Mi dicono che sono pestifero. Fermi, fermi, che torniamo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Feltri, per vendere due copie di giornale in più, fai sti titoli di merda, ma vaffanculo, tu e la tua cazzo di berlina nera, ma vaffanculo, tu e la tua cazzo di berlina. Allora ragazzi, altro argomento importante, c'è una pioggia di critiche sul quotidiano Libero, Libero. Adesso, come mai? No, però come adesso mai? Sembra che io parlo e non potrei parlare perché sono in conflitto di interessi. Ma... Beh, sei uno degli editorialisti principali del collaboro del con giornale. Libero, scrivo ogni tanto un editorialista Libero di quel giornale. Sì, sì, ma non me ne vergogno pagato per niente. Da Libero. Assolutamente. Pagato da Libero. Assolutamente, ma non me ne vergogno. Pagato da non me ne vergogno assolutamente. Pagato da Libero. Non me ne vergogno, ripeto, non me ne vergogno. Allora, però non, veramente non parlo per conflitto, cioè per interesse, sapevo, eccetera. Ma non hanno capito un cazzo. Cioè, il titolo di questa mattina di Libero, su cui c'è una polemica, addirittura innescata questa mattina da dichiarazioni ridicole del presidente della Camera e del presidente del Senato. Ripeto, non persone ridicole, dichiarazioni ridicole del presidente della Camera e del presidente del Senato, che perdono tempo la mattina per commentare il titolo di un giornale che dovrebbero disprezzare, anzi lo disprezzano. Allora che cazzo commentano se lo disprezzano? Se lo considerate monnezza, spazzatura, come ha detto il presidente del Senato, è inutile commentare, no? Lo considerate monnezza, non commentate, non perdete tempo se non per esibizionismo nel criticare Libero. Allora Libero dice: per stendere Renzi bisogna sparargli. Ora ragazzi, veramente siete imbecilli? Siete idioti? Siete dei cretini? C'è un cretinismo dilagante. Ci sono deputati, fior di deputati e senatori della Repubblica Italiana, nonché Presidente della Camera e Presidente del Senato, che non hanno capito una mazza, Parenzo. E lo sai anche tu questa volta. No, lo sai dire, anche è un tu. Un titolo volutamente in stile Libero e in stile ma equivoco, per rafforzare, cioè, no, ma dove no. C'è un gioco di parole, come no, dire, no. Siccome è talmente forte e non ha competitor, l'unico modo per eliminarlo è ammazzarlo. Ma questo sì, è il senso, ma si dice nel gergo popolare. Ma quando si vuoi, dice, ecco, questo è il punto. No, ma Libero qua... gioca col gergo no, popolare. Ma amico mio, ma questa volta, comune, ma questa volta per davvero, quando tu vuoi dire che qualcuno è bravo, anche nel calcio, si dice, guarda, cioè, dice che per fermare quello lo devi ammazzare. Però siccome questo paese è un paese che ha visto la violenza e vede ridicolo, la violenza in politica, è un paese ridicolo. No, ma siccome questo è un paese che ha vissuto la violenza dai, in politica, ha vissuto l'estremismo nero e le brigate rosse. Ma non c'entra un cazzo, dai. È un paese che ha vissuto. Ma che, ma il non c'entra contesto mazza, è questo dai, qua. Davide, è un su. Paese che ha vissuto. No, dai, Davide, niente, dai. Ma non su, c'entra corno, nulla, dai. Un corno, non c'entra dai, niente. Su, è un titolo. È un titolo. È un paese che a favore ha visto di la Renzi. Violenza in politica. È un titolo a favore adesso, di Renzi. È un titolo a presa in giro, non è a favore di Renzi. Ma come no? Lui, come al solito, usa i modi di dire della sopra del c'è bar. Scritto nel PD goffi tentativi per liberarsene. C'è vabbè, un titolo sì, certo, a favore di Renzi. Ma non sì, avete ma capito fatto una fava. In chiave volutamente provocatoria. Ma, vabbè, ma no, ma che Libero. Dici? Ma che dici? Appunto, che è di questo sera? Che si parla. Vabbè, è di questo che si sta discutendo. Ma parlano discutendo. Di violenza, di istigazione alla violenza, all'odio. Dai, su, è ridicolo, dai, è patetico. È a favore di Renzi, non avete capito una fava. Idioti. Boldrini! Vabbè, adesso questo. E che c'entra adesso? C'entra sì, anche la Boldrini si è espressa contro Libero. Ma non è che c'entra i. Boldrini! Adesso che c'entra? Ancora però. Questa storia, ma non c'entra nel merito, mi ah, sì, vabbè, d'accordo, però. Non c'entra. Allora, tutto confermato, almeno dalle accuse, caro David. Ah, aspettiamo, fermi tutti. È stato arrestato uno, no, oggi? Altra notizia importante, è stato arrestato uno della regione cioè, Sicilia. Inizia bene, amici questo miei. È meraviglioso. Inizia bene la nuova legislatura, subito eletto agli arresti domiciliari il signor Cateno De Luca. Uno potrebbe dire, per fare ironia, nome omen, no? Cateno in catene. Però sì, noi bello, siamo bello, noi potuta, siamo bello. Garantisti, dunque sì. Sono arresti, lui si difende dicendo che è un complotto, dicendo che lo stanno perseguitando da un sacco di anni. Però è curioso questa cosa, oltre l'inno della sua lista che era Sicilia Vera, a me mi fa impazzire però, Sicilia Vera, perché scusa Sicilia Vera? Perché c'è una Sicilia falsa? Beh, cioè perché uno fa la lista Sicilia Vera? Mi fa impazzire, le liste, i nomi della lista, Sicilia Vera, bah. Come paesi è terra sconsacrata, non è più tempo di racina zuccherata, ne hanno fatto peggio delle cane, come ne vane ci abbagnano sopani. No, ma non ho capito una mazza, scusa, che significa? Ci hanno bella. Fatto peggio dei cani, ci hanno ridotto peggio dei cani, l'unica cosa che ho capito forse. Bella. Terra sconsacrata. Non è più bellissimo. Tempo di racina zuccherata, ne hanno fatto peggio delle cane, come ne vane ci abbagnano sopani. Sì, chi viene viene ci bagna il suo pane. Hanno fatto peggio dei cani, mi dicono qui dalla regia, ma lui è bellissimo. Palermitano, la corte è palermitano, mentre questo signore mi sembra che sia di dove cazzo è, di Messina, no? Mi sembra, di Messina. Allora, De Luca, 2002, De Luca, Cateno De Luca. Allora, no, questo che cantava, meraviglioso. Non lo so, l'inno di questa lista Sicilia Vera. No, senti un attimo, nel 2012 questo De Luca che cosa diceva, stupendo, senti. Che non abbiamo accettato in questi anni di farci corrompere dalla politica mafiosa del palazzo. Ecco perché io sono diverso e magari l'altro è un cinto diverso o è un volgare diverso, della quale diversità non ce ne frega un cacchio, cari miei, ce ne frega di centieno le sue spalle, non glielo il suo culo, glielo le sue spalle ovviamente. Arrestato, evasione fiscale, 1.700.000 euro. Amico mio, vabbè, andiamo, direi tu, no? Andiamo a Reggio Calabria. Mario, vai. Vabbè. Mario. Ecco, ciao, andiamo a Reggio Calabria. Niente, io volevo per quanto riguarda la situazione. Sì, ma fatti sentire, Mario, ti prego, non cominciamo così. Fatti pronto, sentire. Mi sentite? Sì, dimmi. Ecco, Per quanto riguarda Spada, per me quello era non era un bastone, ma era uno sfollagente con... Vabbè, è uguale, amico mio, dai. No, non è tanto uguale, che un bastone lo puoi trovare su, mentre uno sfollagente ce l'hai già di per sé. Era sfollagente. Giusto elemento capito, che forniremo alle macchine in più bianche volevo dire, e blu. Questa gente si fa forte perché c'era gente che lavorava. Ma se capitava tipo io sono un impiegato pubblico, ma se capitava a me questo signor Spada finiva dentro un pilastro, quindi no, amico mio, però perché bisogna rispondere con finiva dentro un pilastro? Ma che mentalità è? Ma siete matti? No, perché ragazzi, forti anche per con chi non può ho capito, ma tu hai detto finiva dentro un pilastro, ma che vuol dire che lo metteresti dentro un pilastro cementato lì? Ma questo la mafia lo fa, amico mio, forse dalle parti tue sei abituato a Reggio Calabria. Si fanno forti questa gente con forse con dalle parti tue sei abituato a Reggio Calabria, all'Andrangheta, dalle cose nei paesi civili ci si confronta anche in maniera accesa come facciamo noi, non è che si mette la gente dentro i pilastri né li si danno le testate, ma se questo temena vai dalla polizia e lo denunci, ma che vuol dire, ma che sei scemo, la gente è matta, no, assolutamente, cioè ma lo metti dentro un pilastro, gli restituisci il favore, se quello ti mena vai dalla polizia e lo denunci, perché se gli meni pure tu passi guai anche tu, o no? Ma perché tu sei convinto che viviamo in uno stato di diritto dove effettivamente sei tutelato? Ma ho capito, ma io uno, se, ragazzi miei, ma siete impazziti, ma altrimenti è la barbarie, cioè la savana, dove uno ti dà una testata e tu rispondi mettendolo dentro un pilone, cementandolo dentro, ma un siamo pilastro, impazziti. Un pilastro, no, pilone, ma pilastro. Pure, ripete pure Parenzo, il pilastro, capito? Il pilastro. Se no, cioè... nelle fondamenta, vabbè. Non lo so, nel vespaio, da qualche parte. Ma vai a fare in culo, va. Il segnale orario vi è offerto da... Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento La Zanzara. Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 00240024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Siete delle merde, però vi adoro troppo, Tommy a canaglia, merde siete e miserabili. Caro Parenzo, fino a pochi giorni fa ti stimavo, facevo parte della maggioranza silenziosa. Poi, d'un tratto, mi divente musumeciano. E in più, è l'unico che potevi far ragionare a questo vecchio depravato che è a fianco, che fra decideranno finirà sui trami a toccare i culi delle vecchie signore, che quello è solo un vecchio depravato, lo vedi? Sono sporcaccione, sono la cruciata, brutta persona così, Mauro guarda, non ti incontro mai a Milano, il giorno che ti incontro una scaragata in bocca te la do, ma lava di sporcaccio, togliti quegli anelli che sembri un peggio rincoglionito, sei ridicolo. E in più tu Parenzo ti adegui a questo demente che è a fianco e mi difende pure Vittorio Scarpa, che è lo stronzo, lui come critica d'arte è bravissimo, ma solo quello deve fare. Il resto non è articolo suo, non gli si tira l'uccello. Fatemi dire che scopo, secondo me non l'avete mai dato, se vedo una figa gli fa pure schifo, lo metto quasi quasi che lo prende a quel posto lì. Ti abbraccio e vi odio profondamente entrambi. Però vi ascolto lo stesso, stronzi. Parenzo, sei una goccia di merda, tu vatti a dare un mare, cammina! Proviamo a fare un numerino, David, proviamo a fare un numerino di telefono, numerino di telefono. Non risponderà nessuno perché secondo me le forze dell'ordine stanno già intervenendo. Però chi vuoi chiamare, cara? Non lo so, non diciamo nulla, non diciamo nulla, non avvertiamo nessuno, non avvertiamo. Tremo. Thank you. tutto tace, vecchio mio. Tutto tace, che vuol dire che tutto tace? Che vuol dire secondo tutto te? Tutto tace, che vuol amico dire? Mio. Che tutto vuol dire? Tace, tu dici tutto che, tace. Tu dici che macchine, no, bia- so, macchine, no, blu e bianche o macchine, non nere? Non lo so, io non dico a niente. Sirene però spiegate, allora, ragazzi. Forse lo Stato lì a Ostia è intervenuto. Ma sai che io provo, provo una sorta di orgasmo vero quando vedo le macchine della polizia sfrecciare e procedere agli arresti. Vabbè, ma dipende in questi però, casi. Dipende, dipende. Ho detto dai, in questi casi, no? Dipende. Ho detto in questo caso così. Dici che è eccessivo, non lo so. Ragazzi, ci sono conferme di che cosa? Che hanno sì, portato sì, delle vecchie in Sicilia, delle anziane, che non potevano votare perché erano sì, interdette, vecchie, diciamo, non interdette, non interdette per motivi, diciamo, di penali, erano interdette, ma perché erano disabili. Delle vecchie, sono delle vecchie, bisogna chiamare cose con il loro nome, si può neanche più dire vecchie di merda, ma vecchie, vecchie, vecchie, schifose, un letto di ospedale, ma mi sembra normale, mi sembra. Allora, conferme che queste anziane sono state portate in massa a votare da una clinica, forse anche da altre cliniche, pare, pare, perché quello, l'uomo è facile alle querele, a favore di questo, del più eletto in Sicilia, che si chiama San Martino. Uno dice sti cazzi, ragazzi, non ci rompete i coglioni con queste cose qua. Io conosco San Martino di Castrozza, poi altro. No, quello è San Martino, che c'entra? Questo è San Martino tutto attaccato, tutto attaccato. Vabbè, il figlio di una di queste anziane, che si chiama Enzo Calbagno, che ha fatto quel video lì, che poi è andato pure su Striscia Notizia, dice che mia madre è a letto, sua madre è a letto da 3 anni, gli hanno fatto votare Partito Democratico. Ho avuto 2 ischemie, non si può muovere più, rimane a letto, è 3 anni che è messa a letto, quindi. Miracolo ha votato. No, miracolo ha votato, non ha votato mai, finalmente a 88 anni con 2 ischemie a letto l'hanno fatta votare, PD l'hanno fatta votare poi. Vittorione Sgarbi e Amanda Lear che gli tocca le palle. Amico mio, cambiamo argomento, mi sono rotti i coglioni di queste cose. Amanda Lear che tocca le palle a Sgarbi. Ma che argomento è? C'è da discutere. A me capitò una cosa divertente, che andando a fare a letto con Amanda Lear, nell'abitudine che il maschio avanza e la donna si ritrae, io dopo la trasmissione l'ho ricevuta nel mio camerino, lei è entrata e mi ha messo la mano sulle palle. Io sono rimasto stupefatto perché era un gesto da maschio. Ancora sulle violenze, ancora sulle violenze, o presunte tali, naturalmente, Sgarbone. Il maschio vuole subito. Io approvo in toto questa teoria sgarbiana, sentite. Per il maschio è subito e per la donna è dopo. Ma è una dinamica che, se arriva alla conclusione, non mostra nessuna prepotenza. Se la donna va via prima, può dire ha cercato, ha fatto. E questo credo che sia la questione che investe il caso Tornatore e molte di queste vicende, compresa quella di Asia Argento. Allora, vi faccio ascoltare adesso una modella greca che si chiama Ria Antoniou, la quale dice, ospite credo di Mattino 5, la quale dice chiaramente una cosa, poi parla del fatto che uno gli ha messo le mani addosso e lei gli ha tirato un calcio, eccetera. Dice anche che bisogna ribellarsi, le donne non devono avere paura, però senti, senti. Io in realtà non dovevo raccontare mai questa storia. È il motivo che sono venuta qua per presentare il mio calendario. E sfrutto questa opportunità solo perché voglio dare questo messaggio alle donne di non avere la paura. Ovvio sono che qui per sponsorizzare il mio calendario. Non volevo parlare di quello che mi è successo, che mi hanno messo le mani addosso, però adesso ne parlo. Intanto sponsorizza il calendario. Ah, dai, su, dai. Allora, Fabrizio da Salerno, vai, Fabrizio. Ciao, hai fatto la stessa cosa di questa giornalista, facendo il solito paraculo. Cioè, su che cosa? Su che cosa? L'argomento dei titoli di Libero. Tu fai bene a non vergognarti se ti pagano e fai l'editorialista di Libero. Amico mio, ti assicuro. Ma perché devi fare la morale? Quale morale? Demente, pensi, lo sappiamo che usa quel linguaggio. Questo, ma cosa vuol dire? Demente, a parte demente, io lo dici in faccia. Io lo dici in faccia. Che cazzo vuol dire demente? L'ha detto lui stesso un sacco di volte. Ma cosa ha detto? Preferisce questa linea qua. Ma cosa? Linguaggio scurrile, stupido. E poi è vero che c'ha ragione, Parenzo. ma con la storia che abbiamo, ma non te ne fotte mai di dare benzina su questi argomenti. Senti, Neo Borbonico, come ti chiami? Fabrizio? Neo Borbonico, allora, stai tranquillo un attimo. Io ho detto semplicemente una cosa, che il titolo di Libero di oggi, per stendere Renzi bisogna spararli, su cui sono intervenuti in maniera ridicola il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, che dovrebbero occuparsi di cose più serie e non dei titoli di un giornale, se ne dovrebbero fottere dei titoli di un giornale, a cui evidentemente ci pensa in alcuni casi o la magistratura o gli organi preposti, eccetera, eccetera. Che gliene frega se considerano Libero una monnezza? Perché? Perché si occupano costantemente del quotidiano Libero? Evidentemente pensano che dia un po' fastidio. Allora, per stendere Renzi bisogna sparargli. È un titolo a favore di Renzi. Idioti, imbecilli, deficienti, compreso tu, che sei un idiota anche tu. Sei un idiota. Capra, ma che c'entra capra, imbecille? Ma cosa c'entra? Sei un imbecille. Mi inserisco un attimo in questa discussione. No, ragazzi, la cosa è chiara. Quel Libero è come il bar, ma quale, che c'è di male nel rappresentare il bar? Come non al bar io, si possono commentare che dei c'è titoli. Di male? Ma che c'è di male? Ma è un giornale, è un quotidiano. Ma che cazzo c'entra? Ma che c'è di paraocchi? Un giornale spesso rappresenta la realtà. E poi ti ripeto, questo titolo qua, per stendere Renzi bisogna sparargli, è anche un titolo meglio di te. E allora punta e allora non rompere i coglioni. Pagato con i soldi. Non quello si usano questi discorso. Toni. Abbiamo una storia non di merda. Non si usano questi toni. Non si usano questi toni. Massimiliano, no, vai a fare la stessa cosa. Senti Fabrizio, sei un idiota anche tu. Mi hai già scocciato. Ma pure tu sei una capra. Massimiliano, provincia di Roma. Dai. Massimiliano, provincia di Roma, dai. No, niente provincia, Roma, Monteverde, bene, che vuoi dire? Senti, te levite proprio perché se c'è il broleso, secondo me. Ma chi sarebbe, scusa, non ho capito. Tu, sedi, c'è il broleso che sono fai il coatto. Sì, questo ha bevuto, o ha bevuto oppure si è fatto. Chiaramente sei fatto di canne, sicuramente. Beh, vuole interloquire con voce, me. Hai la voce un po' impastata. Questa è la voce un po' impastata, amico mio. Però va bene, può darsi pure che sia un effetto strano. Dimmi, caro, dimmi tutto, caro. Sempre che rimani in cede per un'ora, tu rimani. Io sono un cerebroleso, va bene, vai avanti. Tu, professore, vai avanti. Senti, amico mio, forse non è chiaro una cosa, Massimiliano. Io adesso mi leverò perché voglio farti parlare con Parenzo. Aspetta, stai tranquillo. Dentro questo luogo, farsi le canne, c'è qualcosa di strano. Farsi le canne, io non ho mica detto che è un crimine. Non ti fai le canne, bene, abbiamo certificato che non ti fai le canne. Senti, amico mio, questa. Te levi dal cazzo. No, io non mi levo da nessuno. No, non ti faccio. Ho deciso che non ti faccio parlare con Parenzo. Io voglio parlare un attimo. Non ti faccio parlare insieme. Ma sentiamo Vedi cosa po'. Da dire. Esercito la mia autorità sul cretino, Massimiliano. Ma sentiamolo un attimo. Bene. Allora, dall'alto della mia autorità decido di farti parlare. Dall'alto della mia autorità decido io insindacabilmente. E va bene, ma come se guadagnano i soldi. Quello può darsi. Io ho 46 anni, c'ho un figlio dalla mattina alla sera. Se tu facessi i sacrifici mia, tu sai che facevi? Che facevi? Morivi per terra come sicuramente, ma a me che me frega, scusa. Ripeto, in questo momento decido insindacabilmente che Massimiliano non parlerà con Parenzo. Vediamo al prossimo passaggio. Aspetta, andiamo in pubblicità con tutti i cazzi che abbiamo, le interruzioni, eccetera. Poi decido se Massimiliano ha il diritto di parlare con te. Esercito la mia autorità assoluta. Poi posso dare anche spazio naturalmente alla tua volontà, Parenzo, se tu decidi alla fine che è necessario parlare con Massimiliano. Mi lo faremo. Mi incuriosisce interloquire con questo ascoltatore. Bene, benissimo. Tensione, tradimento. Amici miei carissimi, siete in ascolto. La pubblicità. Pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Su piazzaitalia.it acquista comodamente online tutta la moda che vuoi. La Zanzara. Posso parlare? O mi dovete rompere il cazzo? Calma, no, posso calma, parlare calmati. Con la mia dialettica? Gomez, devo stare a ascoltare. Gomez, se ti vuole, tuo, Gomez, se posso ti vuole parlare? La, Gomez, posso, se ti vuole parlare? La correggere. Posso parlare? Puoi parlare? Posso parlare? Te lo dico io, un secondo, posso parlare? Grazie. Naturalmente. Allora, io vorrei, guarda, tu non mi credi, io vorrei parlare di fica. Sono manifestazioni indegne. Solo una cosa dico al musulmanesimo, come trattate la donna. Ancora con questa storia di donna, dai. No, no, no, ragazzi, ho visto certe cose brutte alla televisione. La donna deve essere rispettata perché è un essere umano. Come, chiudiamo questo discorso. Caffè? Sì, grazie. Caffè? Sì. Caffè? Caffè. Grazie. Ma 5 caffè, veloce! Niente, volevo dirti solo una cosa, per tutti coloro che chiamano Parenzo, c'è un nuovo modo di chiamarlo, mantecato di merda. Allora, eravamo con Massimiliano dalla provincia di Roma. Bene, Massimiliano, allora... Sì, no, ridai questa provincia. Roma. Da Roma, Roma, vabbè, Monteverde, sì. Monteverde, benissimo, ridai. Massimiliano. Allora, decidiamo se poi... Allora, zitto. Allora, fermo, volevo parlare con fermi tutti. Allora, vuoi parlare con Parenzo? Sono io a decidere. Parenzo, tu che dici? Può parlare con te? Attacca, sì, attacca, aspetta, cosa. Cosa. Devi stare tranquillo. Devi stare tranquillo. Io sto tranquillo, devi stare... mai insultato. Io ho insultato, che ti ho detto? Perché farsi le canne è un insulto, non ho capito. Cioè, ho ma detto, dai, non me e non ti fai le canne, non ti fai le canne, d'accordo? Me passi Parenzo. No, ripeto, decido io, devi stare tranquillo. Devi sì, Massimiliano. Sì, aspetta, ok, fermo. Sì, aspetta un attimo. Parenzo, che facciamo? Diamo l'autorizzazione a questo cretino? Sì, diamo. Gliela diamo? Gliela do l'autorizzazione? Sì, diamola. È un cretino, un imbecille, però diamogliela, dai, forza. Cretino è tuo padre. Dai, Massimiliano. Non mi dico così, scemo. Vai, Massimiliano, parla con Parenzo, dai. Vai, allora, puoi parlare. Sei autorizzato, vai, sei autorizzato, vai. Autorizzato, non calma. Comunque, sei in verme della vita. Sì, sì, sì, calma, sei autorizzato, vai. A Parenzo, sì. Allora, la cosa di andare a parlare con Casa Pound, sì. Pare, è una cosa, la vorrei capire. C'è proprio l'ha spiegata Massimiliano, l'ha spiegata. Dai, interviene lui. Voglio parlare con Parenzo. Sì, ma l'ha spiegata, che gli hanno ammazzato la gente della famiglia sua. Andare a parlare con De Simone, con quell'altri quattro scemi, con come si chiama Di quel Stefano si chiama merda. Ignorante, no, Di Stefano allora, si chiama allora, Di Stefano, si chiama non Di Stefano, De Simone. Ma pensa ignorante. Oddio, ho sbagliato allora. Il leader. Ho sbagliato il leader di Casa Pound. Ma sei quattro merda. Ma perché gli Mentana e Parenzo e quell'altro scemo che è andato lì a parlare? Io quando si discute, guarda, quando ti dico così, quando si discute, loro mi hanno invitato. Sì, ma no, per carità, va benissimo. Ho ricevuto parecchie contestazioni per questa mia scelta di accettare l'invito. Adesso non mettiamolo troppo sul serio, però, dai, non è sul serio, veramente. Ci ho pensato a lungo. Mi hanno invitato, vogliono discutere con me e ci vado volentieri perché quando si discute, in democrazia funziona così. Si discute da posizioni totalmente opposte. Massimiliano dice che so delle merde. A parte merde, sono dei violenti che ti vengono a prendere in 10. Io sono un militare, io ho 46 anni, ho un figlio. Se questo vogliamo fare un discorso l'abbiamo, serio, l'abbiamo già accertato. Turca, l'abbiamo... cosa, il cazzo, il culo. Senti, state zitto. Allora, mi pare che loro su questo allora, ti interrompo un attimo, c'è bisogno di un'altra autorizzazione da parte di Parenzo per parlare. Fermo, aspetta. Questo qua, siccome alla Sorca ha detto queste cose qua, state zitto, fermi tutti. Ogni volta lo fermo. Parenzo, sì, lo autorizziamo a parlare ancora? Lo posso autorizzare ancora? Possiamo andare autorizzarlo? Avanti? Lo autorizzo. Diciamo, questa trasmissione è autorizzato per andare avanti. Di peggio, no, sulla sorca, non sulla sorca, sul fatto che mi io dice... Io comunque voglio dire a questo signore qua ma che non lo prendere sul serio. Il diritto di andare a parlare con chi, scegliere con chi parlare ovviamente, non parlerei con tutti, ma hanno invitato Cruciani. E ci vado volentieri a discutere con le mie idee. Oh, eccolo qua, finalmente si è manifestato. Massimiliano, sei cosa un militante dei centri sociali. Vabbè, sei un militante dei sociali, ho detto, dei centri sociali. Sei un militante, della sinistra. Ho 46 anni, appunto. Sono padre di famiglia, sono proletario che conosce i fascisti dall'anni dall'anno indietro, all'anni 70. Allora che? Ma allora ti allora, sta allora, non allora, ma se quello allora vuole andare a parlare, sono cazzi suoi, no? Fermo, l'autorizziamo ancora a parlare o no, David? Boh, forse basta, abbiamo capito tutto ormai, non l'autorizziamo, no? Abbiamo capito autorizzazione finale, minuti, secondi finali. Parla con Casabound. Massimiliano, che cazzo vuoi? Questa è la sostanza, eh. Che cosa vuoi dire a Parenzo? Che non deve andare, non deve andare a Casabound. Cosa? E non mi consideri, va bene, ma un guadagnatore. Un guadagnatore, sì, è vero, guadagno ogni tanto. Me fa schifo pure. Te faccio schifo. Parenzo, tu c'hai un'altra sensibilità. Sì. Che cosa ti porta a fare il confronto con quel deficiente lì? Perché essendo io un sincero democratico, siccome loro si presentano alle elezioni, mi interessa confrontarmi con chi la pensa diversamente da me, perché è un grande passo avanti quando persone che la pensano in modo diverso si confrontano. Io, Mentana, Formigli, Porro, Travaglio, credo che anche andrà tra... Ma non c'è da legittimare niente, perché lì si presentano legge, le elezioni. Non sono si presentano le elezioni, io non legittimo proprio nessuno. Io non legittimo proprio nessuno. Io, a parte che faccio il giornalista, quindi vado a fare delle domande. Con i pori scemi. Allora io, guarda, adesso... certo c'è del numero, tutto quanto. Io sono andato in Bottino adesso, sono uno di quelli che gli è andato dentro a Pialli, proprio bene, bene. Mi pare che anche questo, non sia un esempio di grande democrazia. Che querela, che me frega a me, che querela, no? È uno di quelli che è andato io dentro sono a Pialli. Non ci, la violenza sei in politica violento, è un male, un violento, sicuramente è un sei violento, un violento. Questo io è sono contro la violenza in politica, sei un violento, sei. Quando vedo un fascista mo sto par cazzo Cruciani, e allora che fai, picchi? Proprio, ma proprio non mancuno nessuno, cioè, perché a mio figlio voglio insegnare che la libertà è il bene per Ma che c'entra? E che fai? Vedi un fascista iemeni? Che iemeni? I fascisti del terzo millennio si definiscono. Ma che iemeni? Che iemeni? E iemeni allora? Che fai? Iemeni? Hai detto che sei andato dentro? Hai detto che sei andato dentro? E che vuol dire? Se mi trovo tanti iemeni, se no meno loro. A parte, senti, sei un essere umano, Cruciano. Sì. Cruciani, no, Cruciano. Non devi dire mai di meno. Distemeniamo. Perché può essere che avi te, avi io. I fascisti, come ha fatto Spada ieri con quel giornalista. Ma quello è semplicemente... Quello io lì è un criminale. Ho stima di Parenzo. Cioè ma quel signore là. No, ma no, ci momento però. Quel signore, il signor Spada è un criminale. Non c'entra. Non mi risulta sia iscritto il signor Spada a nessuna associazione politica. Questo però è vero che il signor Spada è un criminale. Ha fatto la foto, infatti glielo chiederemo. Ha fatto la foto con il candidato di Casapalma. No, ha fatto la foto, va. Ovviamente io sto parlando. Io devo stare a quello che leggo. Ho letto un tweet del signor Di Stefano. Massimiliano, state zitto un attimo. Allora, la cosa fondamentale è questa, c'è un elemento però, colui che ha dato la testata al giornalista di Nemo, questo bisogna dirlo, ha fatto la foto con il candidato a Ostia di Casa Pound che si chiama Marcella. Non solo il candidato di Casa Pound, adesso vado quasi incontro alle stronzate che dice Massimiliano, ha rivendicato quella foto e ha detto che è orgoglioso di aver fatto quella foto, almeno mi risulta, e il signore che ha dato la testata, tale Spada, ha detto che avrebbe votato per Casa Pound. Questo è un fatto, assolutamente, lo stesso che ha dato la testata. Poi oggi Casa Pound dice noi non siamo per la violenza, non c'entriamo niente. Vabbè, ultimi secondi col deficiente. Qui, beh, come quella mi pare una cosa però importante. Te do la capocciata in bocca. Tu ci fai tre trasmissioni. Oh, i comunisti! Vabbè, che tu sei pure comunista? Sei pure comunista. Certo che sono comunista. Ma te vergogni di essere comunista? Ma te vergogni di essere comunista? Non te vergogni. Basta che non sia violento. Uno può essere quel che vuole. Basta che non sia violento. Ma non ti vergogni di essere comunista, no? Certo, assolutamente. Ma quello ci mancherebbe, certo. Ma non ha capito un cazzo questo. Ma certo che sì. Ti vergogni perché c'è paura io. Di quella gente. Io. Ma ho detto che devo andare in galera. Ma che cazzo dici? Io vado a Magna Ostia, ci sono mai andato in vita mia a Magna Ostia. Ma che dici? Allora, ma che cazzo stai? Ho detto che devo andare in galera, cretino. Ho detto che devo andare in galera, cretino. Ho detto che devo andare in galera, imbecille. Oh, te devi sta zitto. Fermi tutti, fermo. Fermo lì. Entra in quella fogna di Casabound a parlare con quei fascisti. Vabbè, va domani alla fogna di Casabound, secondo te, a parlare con i fascisti. questi si presentano alle elezioni. Ma chi? Ma che c'entra? Il signore degli Spada che ha fatto quella aggressione violenta, che mi auguro sia già stato preso dalla polizia e arrestato. L'ho detto all'inizio. Questo è un altro discorso. No, non l'hanno arrestato. Ma chi non sta mi con risulta loro? Che ma chi quel sta signore con loro? La polizia, vergognati. Aspetta, Massimiliano Paola, dice che la polizia sta con loro. Vergognati. Vergognati. Vergognati. Con chi sta? C'è il numero mio. No, c'è il numero mio. Ma no, ma non mi interessa. Non diciamo fesserie. Ma non diciamo. Con chi sta? Con chi? Con gli Spada, con gli Spada, il numero del telefono mio, con il numero del telefono mio, stanno con loro lì, con loro chi? Con loro chi? Con loro chi? Con chi? A parte le domande te le faccio io, ma te come fai a non interrogarti di quelle cose che hanno fatto? Chi? Ma dai, ma va alla fine, la polizia sta con il clan Spada, dice questo a mano, e allora legittima i fascisti. Ma tu c'hai le pigne, tu hai le pigne nel cervello, invece noi il microfono, tu le pigne nel cervello c'hai. Ciao Massimiliano. Ciao comunista. Ciao ciao ciao. A me fascio. Io fascio. A so collega, mica so comunista così sa. So comunista così. Allora ragazzi, andiamo per un attimo in Sicilia, va. Andiamo per un attimo in Sicilia, così Massimiliano si calma, eh. Però è forte sto Massimiliano, eh. Combatteva come un leone, eh. Devo dire la verità, combatteva come un leone. Mi piace molto. Sì, io sono contro la violenza in generale. Mi piace in politica, molto. Eh. Combatteva come. Ma no, non c'è mi bisogno piace, di non dire mi... ste cazzate, David. No, non chiaro? Mi piace. Ma no, va detto. Ma sei invece... re, ogni tanto sei il re delle banalità. È chiaro che sei contro la violenza in politica. Non c'è bisogno che lo ho dici. Ho capito, ma a me il fatto che uno di destra o di sinistra, in questo caso di sinistra, dica che va a sprangare le persone, francamente. Ma non l'ha detto no, questo. Va a prendere, sì. Come lo direi ovviamente di quelli dell'estrema destra quando lo fa. Andiamo in Sicilia, per una, in Sicilia per un attimo. Allora, questo signore si chiama Galbagno, Enzo Galbagno, lo voglio chiamare. C'è l'autore Galbagno. Del video in cui ha scoperto che la madre è stata trasportata illecitamente, ovviamente, a votare insieme ad altre anziane di una casa di riposo, e pare, sembra, da quello che è uscito fuori, che ad organizzare tutto, comunque questi voti sono andati al più votato del Partito Democratico in Sicilia, che ha preso oltre 30.000 voti, che si chiama San Martino. Precisiamo che questo San Martino, se no poi si incazza pure con noi, a me non mi va di avere rotture di coglioni. Questo San Martino dice, non mi va di avere altre rotture di coglioni. Ecco, questo San Martino ha annunciato querele, sfracelli, non c'entro niente, non ho portato nessuna vecchia a votare. Sarebbe la prova di alcuni brogli accaduti in Sicilia. Però siccome il protagonista di questa vicenda è il figlio di questa signora che è stata portata a votare, ci sono alcuni video che sono, che girano, un servizio di Striscia la Notizia, chiamiamo questo Enzo Galbagno, vediamo che viene fuori. Vai ragazzi, numero di telefono, vai vai vai. Pronto, mi dica. Pronto? Sì, pronto. Enzo? Sì. Come andiamo? Sono Cruciani, buonasera. Cruciani? Sì, Cruciani. La sarebbe, chi sarebbe? Radio 24, buonasera. Cruciani, Radio 24. Come andiamo? Ma andiamo bene. Fioccano le denunce? Ma io la denuncia l'ho fatta ai carabinieri ieri. Ieri mattina, alle 2, abbiamo fatto una denuncia dove abbiamo scritto un po' di tutto, cioè come sono successi i fatti. Ma ci spieghi un attimo una cosa, cioè lei ha scoperto che hanno fatto votare sua madre, che ovviamente non può farlo. Sì, mia madre fisicamente già non lo può fare. Sì. E poi non ha l'abilitazione alla firma, neanche questo. E dunque non poteva farlo, invece risulta come persona che ha votato. Sì, è stato votato sul PD. San Martino. Sul PD. Cioè, scusi un attimo, allora, no, ma scusi un attimo, Galbagno, io non ho capito una cosa. Lei ha scoperto questa cosa, ma come è arrivato a scoprire, secondo lei ovviamente, che il voto è stato dato a questo esponente del PD, San Martino? Allora, prima di tutto perché le votazioni sul col PD sono diminuite tantissimo in Sicilia. Invece l'unico che è andato oltre i limiti è stato questo qua. Secondo, perché l'ha detto la signora intervistata, che è vicina della camera di mia madre, che è stata votato questo San Martino, Luca San Martino, che neanche conosceva. Sì. E chi gli ha detto di votare San Martino? Il direttore della clinica, chi gliel'ha detto di votare? Hanno detto sì, gli assistenti lì. Gli assistenti, quelli della clinica dove è ricoverata? Sì, perché loro, Borzig, il proprietario, diceva che loro hanno sponsorizzato questo politico, perché giustamente doveva fare anche dei comizi dentro e cose varie. Dunque c'è stato praticamente una specie di comitato a favore di questo candidato all'interno dell'ospedale dove è ricoverata sua madre? Senza dubbi c'è stato questo. Ma come hanno fatto a portare al voto la signora? Allora, non hanno portato a voto la signora. Hanno portato a voto tutta la clinica. Cioè, ma in che modo? Fisicamente no? Solo, ascolti, non solo tutta la clinica, Regina Elena, ma anche le altre cliniche attorno. Ma come hanno fatto? Scusi. Ma come hanno fatto? Io dico subito. E mia madre l'hanno messa sulla vestita, l'hanno messa sulla sedia a rotelle, l'hanno portata giù nell'atrio, come hanno portato tutti gli altri. Cosa dichiarata dalla signora che è vicino accanto a mia madre. Giusto? Sì, sì, sì. Ecco, ma come hanno fatto? Hanno dovuto falsificare le firme? Come hanno fatto? Chi è che poteva autorizzare sua madre ad andare a votare? Mio fratello solamente, perché mio fratello è iscritto dal tribunale che è tutore di mia madre. Per cui hanno falsificato le firme? Che hanno fatto? Allora, hanno falsificato la firma, sì, copiandola dalla copia della carta d'identità data alla casa di riposo quando mia madre, diciamo, è entrata lì. C'è la carta d'identità che è nuova, dove c'è inabilitata a mettere firme. Per cui non ho capito bene, un vero e proprio sistema è stato scoperto? Ma io penso di sì. Secondo me, io non sono un carabiniere, cioè, a indagare troveremo che ci saranno altre 20, 30, 40 persone come mia madre che sono state private, sono state abusate di questo. Cioè l'hanno portate a votare, l'hanno portate a votare. Perfetto, fregandosene se potevano filmare, se non potevano filmare, se erano malati. Addirittura la signora dell'ufficio elettorale dove dichiara che gli hanno mandato delle lettere addirittura dei malati terminali. Per cui io non ho capito una cosa, lei che vuole fare? Perché questo qua del PD è incazzatissimo, dice che vuole denunciare tutti, ha detto che non è vero. Scusi, io non voglio essere accademico, sapo come si dice. Come si dice? Ma posso fare. No, ma nel senso che lui è incazzato, dice che non è colpevole. È incazzato, caro mio, se lui si mette a fare queste cose, è normale che la gente... Io prima di tutto sono partito perché è stato commesso una cosa a mia madre, una mancanza di rispetto. Ma questo non c'è dubbio. Questo a una non persona c'è. Di 88 anni, con due ischemie, buttata a letto, perché se io le mando il video di mia madre, o se lei fa la clinica, va bene, vedere mia madre, si accorge che mia madre la firma non la può mettere fisicamente. Poi c'è il discorso della cosa, quindi io non è che sto denunciando a lui. Però lei dice chiaramente, lei dice chiaramente che è evidente che è stato lui, cioè è evidente che è stato una... scusa, il voto mica l'hanno dato a me, il voto gliel'hanno raccolto i suoi scagnozzi, va bene per raccogliere il voto quello, o se no gliel'hanno raccolto quelli, gli scrutinatori e il presidente. Sì. L'hanno raccolto loro il voto. E per cui secondo lei sono colpevoli pure quelli del seggio? Ma se senza dubbio, cioè qui ma non c'è bisogno di essere Sherlock Holmes. E perché io chiedo i danni pure su questa situazione qua. Chiede i danni, vuole chiedere i danni. Ma certo, scusa, se la madre è stata trattata in questo modo, se il voto della madre è stato rubato, è giusto chiedere i danni, non c'è dubbio. È una cosa morale, chiedere i danni sia alla casa di cura e sia agli scrutinatori personali. E possibilmente arriveremo anche a lui a questo. Non lo so, a questo punto io non sono un avvocato. Scusi un attimo, ma lei chi ha votato? Lei ha votato personalmente? Io certo che ho votato. Chi ha votato? Io ho votato 5 Stelle, perché l'unica cosa che lei può votare ora è passa 5 Stelle. O sbaglio, è questo qua l'unico partito. Chi è stato in Sicilia? Musumeci. No, Musumeci personalmente è una brava persona. Però? Ma Musumeci da chi è stato portato? Tutta questa balaonda. Cioè, tutti ladri, mafiosi, eccetera. Comunque. Ladri? Parlano i fatti, giusto? Va bene, grazie caro. Ciao, arrivederci. Galbagno, forza, avanti tutta, Galbagno. All'attacco. Ciao. Comunque ragazzi, ancora succede che portano la gente a votare, gli anziani, i vecchi. Adesso lasciamo perdere le accuse. Ma amici miei, ma ve potete salvare così? Dico ai siciliani, siete un posto ingovernabile. È ingovernabile la Sicilia. E avete appena votato, hanno già arrestato uno. Per carità, magari poi è innocente, quello che vuoi. L'hanno già arrestato il primo giorno. Vittorio Sgarbi ha fatto pure un comizio prima delle elezioni insieme a questo Cateno De Luca, non so come si chiama. Sì, Cateno De Luca, per carità, adesso non poteva sapere, eccetera. Magari questo sarà innocente, però è una situazione che non ha salvezza. Cioè, non me la piglio con i siciliani. Il governo della Sicilia è così, è impossibile. E chiunque vada lì è irriformabile. Bisogna fare tabula rasa di tutto: i forestali, le spese, la mafia e gli imbrogli. Ma ti pare normale che il figlio 21enne, 22enne di un ex deputato che è passato dal PD a Forza Italia, a Genovese, che ha una condanna in primo grado a 11 anni, prenda 17.000 voti? Uno dei 20 anni. Certo, ma dai, ma c'è ancora un trasferimento di voti come i pacchetti, ma siamo nel terzo mondo e poi vogliono ancora le preferenze in Italia, capito? Le preferenze, 20.000 voti portati dal padre al figlio così, ma che roba è? Ma è roba che manco in Serbia fanno queste cose, dai. Beh, in Serbia infatti. Ma no, certo. Ma ragazzi, ma è una cosa assurda, dai. È impossibile governare la Sicilia. Meglio che sia andato Musumeci e non i 5 Stelle, altrimenti se ne inchiappettavano, dai. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognate! La zanzara. Dal Po in giù è Terronia. E Napoli come la consideri, la città di Napoli, la Campania? Napoli è Africa. Napoli e la Campania? Reggio Calabria, Africa. La Calabria? Africa. Africa pure quella. Africa, Sicilia pure. Sicilia. Oltre l'Africa, cosa c'è? Ma Polo Sud, guarda. C'è tensione, tradimento. La mia fidanzata, che è atea e si vanta di essere atea, quando facciamo l'amore dice: oh, metodo scientifico, oh, metodo scientifico. E quando fa squirting non dice mio Dio, ma dice: oh, matematica, oh, matematica. È comunque una stronzata quella della mamma che difende sempre i figli. Mia madre mi ha sempre detto: se ammazzi qualcuno ti nascondi in cantina, se tocchi una ragazza al processo non ci arrivi. La mamma. Cruciani! Testa unta e vuota, hai visto in America? La tua magica America? Ennesima strage per colpa di un imbecille, di un idiota che però era armato. Le armi libere come ti piace a te. Ma perché non vai anche te in America e non ti trasferisci anche te in America? Testa unta e vuota senza palle. Ciao, testa unta e vuota, ciao. Vodafone. Ancora nessuna risposta dalle parti di Ostia. Dalle parti non so se di Ostia. Un buon segnale, perché vuol dire che questo signore è nelle mani dello Stato. Nelle mani dello Stato. Nelle mani dello Stato. Allora, Alessandro dalla provincia di Brescia, vai. Oh, cazzo, pensavo che ero io. Oh, Alessandro, dai, vai. Alessandro. Ma non so, non da provincia di Brescia. Alessandro da Roma, dai, Alessandro da Roma, Alessandro dalla provincia di Brescia. Prima c'è Alessandro dalla provincia di Brescia, chiamatemi quello, aspetta Alessandro. Vai Alessandro, dimmi. Cruciani, ciao, fondamentalmente ho piacere parlare con te. Seconda cosa, ho chiamato solo per mandare a fanculo quell'altro che c'è in parte, lo sciacquino che c'è in parte. Eccoci qua, buonasera, parte... grazie. Buonasera, ciao, grazie. Coglione, se mi fai parlare due secondi, ciao, prima buonasera, di cominciare a urlare. Buonasera, benvenuto. Grazie per il suo intervento che farà, ciao, sulla radio, caro, della Confindustria. Grazie, buonasera. Ciao caro, grazie, grazie. Bene, cioè, Tiago Soli andrà a lavorare un giorno e vieni sotto come, sì, me, un capo squadra come me. E figa, sì, veramente ti pisce in culo perché non, no, metti, no, un, no, cazzo. No, no, no, fermo, beh, fermo, no, un attimo, bella, fermo, espressione, fermo, bella, un attimo, espressione, fermo, colorita, un attimo. Allora Alessandro, cosa vuoi? Spiegami cosa vuoi. Cosa vuoi? Andare a fare in culo il coglione che impara. Ma perché? Spiegami perché. Cosa significa? Perché ti pisce, cioè, cosa significa, imbecille? Quel pro comunisti, pro Finocchi, il pro tutto quello che c'è da dire. Pro Finocchi sono pure io, sono pure io, so, pro Finocchi. No, quello, no, che tu dici essere pro Finocchi, pro Finocchi lo sono anch'io, se i proprio pro vuoi dire pro Finocchi. Pro tutto quello che c'è in giro. Ma, che, ma in... che ti hanno fatto i Finocchi? Spiegami. Fondamentalmente niente, a me niente, fondamentalmente, però? Cioè, scusami, io sono padre di due bambine. Cioè, se dico Finocchi a uno, così mi mandano in galera a me. Che no, non ti mandano in galera. No, non ti mandano in galera. No, non ti mandano in galera. No, si ti becchi per un po' non più, Cruciani. No, ormai l'ha detto, purtroppo. Sentilo, no. Sentilo. Ma al massimo, no, le danno un giorno i servizi sociali, le farebbe anche bene. Comunque. Sì, a me farebbe bene, finché, guarda. Sì. Beh, un paio di giorni ai servizi sociali e un po' di rieducazione. Mesi, passo dalle 5 alle 7 di sera. No, guarda, ti auguro di andare a lavorare, per il... solo quello, guarda. Ti auguro di andare a lavorare e trovare un caposquadra come me. Ma non ho capito perché? Minoranza. Ma perché non ho capito? Un caposquadra di che cosa? Che lavoro fai tu? Anni ti ascolto, io sono un tecnico manutentore, magazzini, sì, meccanizzati. Sì. E penso che Terenzio non sappia bene anche da che parte cominciare, guarda. E uno così, a ve lo sotto io, beh, lo faccio imparare a fare al mondo. Cioè, vuoi picchiare, vuoi ammazzare di botte Parenzo? Ma chi questo? No, ma chi violenza. Beh, allora, scusa, che hai detto? Scusa, averlo tra le mani, ragazzi, però non è uno può dire le cose e poi dice no, però no. Imparare a stare al mondo, per cui parla, ma non sa neanche dove è girato, non sa neanche quell'uomo lì. Cioè, non so come fai a lavorarci insieme, perché io ti rispetto tutto quanto, non apprezzo a volte, poche non volte. Non ho capito, Davide, mi devo preoccupare, non ho capito, Davide, no, mi devo preoccupare. Fallo parlare, no, ma mi devo preoccupare, dico, mi devo preoccupare del fatto che mi apprezza? Io no, qualche domanda me la farei, vecchio mio, no, però no, sai... Okay, va bene. Sì, sì, no, veramente, non ti apprezzo per un cazzo, veramente. Cioè, dici delle stronzate assolute. Lei dice parli il sottoscritto o Cruciani? Se fossi in terra, dai sempre no, a te. Altro rale... Come prima, sì, che parlavi, sì, di questa testa di cazzo che ha trovato l'estate a quell'altro, sì, e tu parli, sì, al plurale, avete capito? Cioè, avete capito che cosa? Ma non sei solo intelligente, non devi sciacquarti la bocca quando parli. Sai, mi pare che lei sia un po' limitato. Si fa una massa tanta, paga le tasse, si fa un culo tanto per mantenere anche quelli come te, capito? No, no, purtroppo lei non mi mantiene, mi dispiace, no, ma lei non mi mantiene neanche un po', purtroppo. Tu dici un sacco di stronzate dalla mattina alla sera. Lei purtroppo non mi mantiene, sa? Questo glielo voglio proprio dire, ma così si toglie. C'è la zanzara, quella di una barca di soldi, guadagni. Solo per tu non sapresti neanche mettere su un qualunque cosa. Perché no, io l'acqua della pasta la metto su, so anche cucinare molto bene per quello. Pasta, Tatino, sì, bravo, Tatino, bravo. So anche cucinare benissimo, sa. Sì, ma io anch'io, guarda, so che cucinare benissimo. Mi diletto a cucinare. Ma probabilmente penso che tu fuori dalla zanzara o dalle quattro minchiate che scrivi non saresti in grado di fare niente dai, nulla, no, totalmente nulla. Dai, tutte le tue cose, le tue sentenze, sì, Parenzo, sì, non niente, un non si può fare niente, ecco, niente, non so toccare un chiodo, certo, detto, non vale un cazzo, tu e quell'altro che quindi una adesso lei è contento, non vale, quindi lei adesso è felice, cazzo, lei adesso sì, si sente più sereno. Thank you Parenzo. Ciao Alessandro, ciao caro, ciao, stammi bene, mi raccomando, tutte le migliori cose ti auguro, ciao anche a te, ciao. Beh, no, comunque ragazzi, la pietra come dire definitiva su tutte le ridicole polemiche sul titolo di Libero di oggi, che ripeto è per stendere Renzi bisogna sparargli, l'ha messa lo stesso Renzi, il quale ha detto, ovviamente doveva dare un po' di ragione a tutti quelli che lo hanno difeso, no? Non è una cosa, non mi ricordo se ha detto elegante o non è una, ma ha detto non mi sento affatto minacciato, è una battuta ragazzi. Andatevi a sotterrare, non avete capito una mazza, non avete capito una fava, a partire dalle più alte cariche dello Stato che si dovrebbero interessare di altre cose. Ma io vorrei risentire però quello che è venuto fuori oggi, cioè dire questa aggressione subita col setto nasale spaccato da parte dell'inviato di Nemo Ovviamente colpito. L'avremmo detto di chiunque, non perché è un giornalista, noi che ci frega, l'avremmo detto di chiunque, però chiunque sarebbe fosse stato aggredito. Il fatto che i giornalisti vengano intimiditi, ma non me ne frega niente, ma se è un giornalista stava facendo delle domande. Ah sì, stava facendo delle domande, punto e basta. No, era quello insistente, per dire semplicemente sì, che hanno una impunità assoluta, no? Cioè, ma impunità, fosse questo, stato che impunità, no, ha fatto la luce del sole, che impunità. La esatto, il fatto che le telecamere non lo abbiano fermato minimamente nella sua azione dimostra quanto questi siano persone pericolose, questo voglio dire. La tua speranza però è che con Casapoggio cambi qualcosa. Non me ne fotte in cazzo, non me ne fotte niente. Oh, ma rotto il cazzo, oh. Ma rotto il naso. Rotto il naso, sono due ore che sta qua. Oh, fermo, fermo, gli hai rotto il naso. Ma hai rotto il naso. Rotto il cazzo. Dai, lascialo, lascialo, oh, ma hai rotto il naso, dai, no, basta. A brutto un fa. Ma me ne vado se me lo dici, no? Ma basta se me lo dici con calma, me ne vado. Guarda che mi hai fatto, cazzo, ma hai rotto il naso. Allora, Antonio da Roma, vai Antonio. Beh, è stato vai. Incredibile il giornalista di Nea non perdere la calma e a essere così, vabbè, no, sì, freddo. È andato all'ospedale, ma sì, assolutamente. Ho sì, capito, ma gli hai detto solo, mi hai rotto il naso, oh, calma, non è che si è messo a fare una collutazione con quello lì. Te cioè, credo, cioè, è Antonio, stato, vai. Antonio. Non ha neanche reagito, voglio dire. Buonasera. Dimmi Antonio, però non si sente un cazzo, vai, parla bene, dai. No, volevo parlare con David. No, allora, non si sa. No, David, David, intanto sì, David qui sì, sì, non c'è. Si chiama David, cerca. Antonio, però no, David, se lei cerca David, David qui no, non allora c'è. Antonio, o ti fai sentire bene oppure mi hai rotto il cazzo, come, dico come ha fatto il coso, la spada, mi hai rotto il cazzo, no, la testata. Argomento, partecipazione di David a Casa Pound. Allora dimmi, dai, forza. Sì, mi deve spiegare lui che cazzo ci va a fare, sono d'accordo con i ragazzi di prima. Ma tu sei, puoi essere d'accordo? Verde, Roma e non provincia, va a abilitare questi signori. Non c'è l'altro niente giorno, da riabilitare. Sabato pomeriggio, Roma non Euro. Non c'è nulla da riabilitare. Aspetta, fammi sentire. Roma Euro, sabato pomeriggio, c'era un migliaio di idioti che hanno bloccato l'intero quartiere. Sì. Io avrei invitato David a partecipare e a vedere le facce di questi signori. Ma, ora, ma di chi erano quelli? Erano militanti, sono violenti, erano persone con le quali è impossibile, come dire. Ma erano militanti di chi? Erano militanti di chi? Perché erano militanti capisco. di chi stai parlando tu? Di chi sto stai parlando? Di chi? Del sabato che a Roma c'è stato. Ma non lo so chi erano. Chi erano questi qua? Erano chi erano? Tutti appartenenti vicini a chi? Casa Pound. Ma vicini, quindi, cioè, che vuol dire vicini a? Che da chi no, era organizzato? La manifestazione di sabato erano non Forza mi Nuova, dai, forse erano Forza Nuova. Che sono due robe diverse. Vai su internet, Roma vabbè. Euro, manifestazione. Antonio, manifestazione di Antonio, io so. No, non mi risulta fossero quelli di Casa Pound. Ma comunque il tema non è questo qua. Il tema non è questo. Però posso concludere un attimo questo argomento, che sennò veramente rompiamo il cazzo alle persone. Allora, la cosa fondamentale è solo una. Quando si parla, va bene parlare, punto e basta, ci si confronta, si parla anche in maniera aspra, in maniera forte come facciamo noi. Una cosa è questa, una cosa è la violenza, punto e basta, non ci beh, sono certo, discussioni. David altro, che come dire, come sapete voi è ebreo, giornalista diciamo di sinistra o comunque più o meno di con le mie idee diciamo, con le sue idee eccetera, cose, va no, certo, a Casa Pound a confrontarsi con uno dei capi di Casa Pound su vari temi. Certamente non è che sarà morbido nei confronti di Casa Pound, attaccherà dove c'è da attaccare, ma lo sanno come basta, la penso. Quindi qual non è il problema se uno si va a confrontare, che è legittima? Chi? Quello è un partito che si presenta alle elezioni. Ma quale partito? Ma sono quattro scemi che vanno lì e noi ne parleremo pure, non dovremmo parlare. Amico il mio, quartiere dell'Euro, tu sei fascista. Sei un fascista. 400 agenti, sei tu un fascista. Sei tu un fascista che non vuoi parlare. Fascista, non vuoi parlare fascista con le persone. Sei tu che dici che non sono persone con le quali bisogna dialogare. Non bisogna accreditarli. Ma, ma non c'è nulla da accreditare. Non c'è nulla da accreditare. Nel video di questa di Alessandro questa da Roma al Alessandro, che succede? Gli hanno menato adesso è un criminale, che c'è da, lì, che c'è da commentare, quello che ha aggredito è un criminale. Alessandro vai. Ciao Beppe, dimmi allora Alessandro. Senti, io ho già chiamato, sì, e sono un sostenitore della maggioranza silenziosa, sì, vabbè, perché è ancora sì, una volta mi è successa un'esperienza negativa a proposito della prostituzione. Cioè che hai fatto? Sono andato a Madrid, sì, a trovare mio fratello che vive, tra parentesi, una relazione bellissima con la sua ragazza, l'unico vabbè, tipo vero di amore possibile. E vabbè, chi se ne frega. E mi hanno lasciato solo a Madrid alla Gran Via alle 11 di sera e io non volevo tornare a casa. Allora sì, mi sono messo a fare un giretto per la Gran Via, non sapendo che fare. A un certo punto mi ha fermato un Marrakech, un marocchino, mi ha detto se lo potevo seguire, che potevo andare in uno strip club, un relaxing club, che per rilassarmi, bere una birra, stare tranquillo. Vabbè, questo allora... quest'altro. Sono andato là dentro, non c'era nessuno spettacolo, c'erano solo degli ammassi, come se tipo te prendi Viale Marconi e lo trasferisci tutto all'interno dentro una stanza, tutte prostitute schifose che venivano vicino a me e cercavano di, dicevano frasi terribili tipo vuoi una ciupata, vuoi una cosa del genere. Allora siccome io ho avuto un'esperienza negativa con la mia ragazza... Ma perché sei andato là dentro? Non ho capito. Perché mi ha lasciato solo mio fratello nella mia. E che c'entra? So uno che sta da solo, va a mignotte, non ho capito. Non vado a mignotte, io ho avuto già un'esperienza negativa per cui che ho pure raccontato qua in diretta. Ma chi se ne frega, Alessandro? Ma che ci frega noi? Cioè, ma come dire... che ci frega? Perché questo è il risultato del tuo liberalismo, del liberalismo che predichi tu sempre e continuamente, dicendo che tutti devono essere liberi di prostituirsi, devono essere liberi di andare a prostituirsi. Ho detto possono, è diverso. Alessandro, tu ci stai raccontando un'esperienza, un'esperienza negativa. Questa è proprio l'essenza, cioè? L'essenza proprio della prostituzione. Cioè senza prostituzione è questo, cioè tu vai dentro un luogo chiuso con queste che si vendono questa carne, no, che entra dentro, no, altra carne, una merda proprio, cioè nel senso tu non hai idea che cosa il vero strana. Amore, il vero amore è l'amore senza sesso. Ma che vai a mignotte, devi trovare il vero amore. No, vai a mignotte, no, devi trovare il vero amore, non ma ho capito. Sei andato dentro uno strip club e dovevi trovare il vero amore. Ma che no, sei... no, io ci sono andato perché ma loro me l'hanno proposto come ma cosa, che proposto? State zitto, va, ciao, fermo, sta zitto, va. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao, ciao. La Zanzara. Era per dire a David che se fossi stato in casa nel momento in cui c'erano i rapinatori, li avessi trovati, avessi avuto i mezzi. Torture medioevali per questi figli di puttana, torture cazzo di medioevali, maledetti figli di troia, cazzo dovete morire dissanguati e male, dovete entrare solo nelle vostre di case, figli di puttana di serie B, figli di puttana neanche di serie A, di serie B, maledetti voi e le vostre famiglie che si interrompano il prima possibile, ladri di merda. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Allora, io non mi voglio arrabbiare perché... ho fatto la visita da cardiologo, che sono leggermente sovrappeso, mi ha detto che devo perdere almeno 10 kg, camminare un pochetto a sera e insomma senza sale, c'ho un po' pressione alta e tutte queste minchiate qua. Anche se mi ha detto che quando uno tromba, ha detto vale come una camminata di un chilometro. Comunque, lasciamo perdere tutte queste storie, no? Allora, io dico una cosa. Come dice l'amico Davide, che la donna bisogna portarla a cena e magari conoscersi e magari gli piaci, però a prima sera non te la dà. E che bello è. E che bello è. Cioè, io dovrei stare tutta giornata prima che mi preparo. Mi preparo, poi lava piglio, allora lavi la macchina, così, ti improfumi, la doccia, vai a cena, paghi tutto quanto, e ridi e mangi, gli paghi a cena, poi gli paghi un bel aperitivo, magari si passa, che ne so, un grappino, qualcosa, tutto quanto, sprechi gasolio, autostrada, e pause ficca! Minchia, no, eh? No. Allora, la teoria del karma. Tu ti prepari, ti improfumi, tutto quanto, perché è giusto. Vai là, ai soliti posti, quelli che mi piacciono a me, i burtelli, e ti fa una bella ficcata. Con di sticchio, con dei pezzi di sticchio puliti, con dei pezzi di sticchio profumati di 25-26 anni, massimo 30 anni, Ah, ah, e che bello è! Fai subito! E la cosa più bella è che la cosa è certa, c'è la certezza. C'è la certezza del secondo fine, che è quella di primo vedere lo sticchio e secondo di farsi una bella ficcata. Quindi Davide, ti posso dire una cosa? Lo capisci ora? Arrivederci. Beh, questo era un lungo editoriale, caro Parenzo, del Karma Quotidiano. Un cioè, lunghissimo editoriale. Vergognoso. Perché vergognoso? Scusa, perché? Proprio da maschio, non da maschio alfa, ma da maschio da uomo, pagante, dici, appunto. Da uomo, dici. No, da maschio pagante, semplicemente la mentalità di chi paga, come se il corpo della donna fosse una merce, fosse un pollo che si trova al supermercato, fosse una bibita, una cosa vergognosa. Mi improfumo, ma è una cosa vergognosa. Allora, Roberto Spada è ancora a piede libero, non è stato sottoposto a fermo. Chi lo dice? Ma è conferma? Sì, da quello che si fonti? Sa. Da quello che fonti, si sa, fonti, sì. Fonti, fonti. Però, ragazzi. Mi pare che ci sia una prova evidente. Io adesso non conosco la legge, non voglio, di solito non voglio l'arresto per nessuno. Non è che esulto, no, quando ci sono, fermo, le manette, però amico mio, qui c'è uno che dà una testata a uno. Ma se non ti arrestano in questo caso, ma quando ti devono arrestare? Ma che paese è? Su ragazzi, dai, diciamo la verità, fermatelo, tenetelo. Poi per carità, ci saranno i processi, ci saranno le cose, ci saranno le denunce, ma se uno non viene fermato e arrestato in questa occasione, ma quando lo arrestano? Io non dico niente, io non ho nulla contro questo signore qua, non guardo quello che ha fatto, guardo quello che dice, guardo i reati che hanno commesso i suoi familiari, guardo se ha commesso anche lui dei reati. Per me è libero di fare quello che vuole, di votare chi vuole. Però ha dato una testata a uno semplicemente perché faceva delle domande. Cioè, ha dato una testata a un signore semplicemente perché faceva delle domande. E ha anche rivendicato questa cosa dicendo che lui aveva perso la pazienza. Ho capito, amico mio, se uno perde la pazienza, non dà una testata in bocca. Però sta per arrivare, amici miei, una bomba. Una proposta che ci viene direttamente da Budapest, detta anche Budapest. Budapesti. Da parte di Rocco Siffredi. Attenzione, ascoltando la trasmissione ieri, quando parlavamo del problema dei 3 milioni di italiani, secondo quell'urologo che aveva problemi di erezione, beh, lui ha il rimedio e addirittura ci annuncia la fondazione di un partito con un obiettivo preciso. Tra poco vi diremo tutto. Giuliano da Lucca. Giuliano, questo si è perso nella tundra. Dove ti sei? Non ti sente a cazzo. Alessio da Pescara, vai Alessio, dimmi. Ciao, volevo parlare con Parenzo. Sì, parla pure con me, con Parenzo. No, sì. Non vuole parlare mai con me. È un altro che non vuole parlare con me. Il camionista di Pescara. Ah, Alessio, il camionista di Pescara contro volevo i camionisti. Dire, sì. David, no, oggi questa sera voglio parlare di un'altra cosa. David, tu domani ti do del tuo. Senti, ma come consideri le ultime uscite di Quirico, del tuo amico Quirico? Non l'ho ascoltato, ma volevo parlare di altro. Io... Guarda, mi definisco profondamente antifascista, però non comunista, così dopo non mi date del comunista perché non lo sono. David, questi qua sono i più grandi revisionisti, cioè loro hanno negato la Shoah, hanno negato... Chi ha negato la Shoah? La Casa Pound. Alcuni esponenti, sì, è vero, alcuni esponenti... Forza Nuova, cioè... Su Facebook sono due famiglie diverse che hanno anche atteggiamenti diversi rispetto a questa roba qua. David, comunque non mi sottrarrò sicuramente per una serie di motivi. Allora il populismo e l'ignoranza, loro puntano tutto su quello. Ma quelle sono posizioni politiche, come si chiama? Cioè domani tu vai lì a far cosa? A fare il loro gioco, ma anche se tu non vuoi, perché non c'è il tuo livello gioco. Ho capito, non c'è nessun gioco, io non sto a nessun gioco abbassarti. Di nessuno. Vuoi non fare c'è nessun gioco politicamente? Non c'è nessun gioco di nessuno, sono semplicemente il quarto giornalista che partecipa a un confronto con una forza politica lontanissima da me che si presenta alle elezioni. Certo, Non nasconderò di certo il mio pensiero, visto che vabbè, ogni ragazzi, giorno però, grazie a questa trasmissione le leggi le campagne d'odio, David. Alessio, cioè, ma qual è il punto? Non ho capito bene. Li va a legittimare, se ma lui che parla, leggi? Li va ma non c'è bisogno, ma sono quelle un partito. Sono, ma andate da quelli di destra, andate da chi, qualunque forza, ma i neofascisti in Italia Ma ragazzi, ma per non me, dite stronzate, ma siete di antidemocratici, siete antidemocratici, tutti hanno diritto di parlare, Alessio, non rompere i coglioni, tutti hanno diritto di parlare e di esprimere la propria opinione, anche Casapaldo, secondo me pure Forza Nuova, finché qualcuno non dice siete fuori legge, chiude i partiti. Ti spaccano il naso il giorno dopo, ti rompono il culo, quello fanno. Ma che c'entra? Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Allora dopo giustifichiamo anche uno come Massimiliano che ha chiamato prima, che con quella devi solo menare le mani. Scusa, ma secondo te, se uno di fermala. Secondo te Alessio, se uno come se uno di Casa Pound avesse spaccato il naso a qualcuno, secondo te Parenzo sarebbe andato domani a Casa Pound? Non ci sarebbe. Ma lui si andrà a confrontare, adesso io non li conosco per nome, lui andrà a parlare con la creme della creme, con chi sa, con chi è capace di comunicare con uno dei leader, con il leader, esatto. Con il leader, e che il 90% di quelli non sanno comunicare. Ma che cazzo c'entra? Ma che sei, ma sei razzista? Che ma che ti senti superiore a quelli? Non ho capito. Ma che non cazzo sei? Comunicare, io non mi sento superiore, però come, lo come ti senti? Come ti senti quelli superiore ai camionisti? Dai, non rompere le balle, Alessio, fermo. Sì, i camionisti ce ne sono tanti bravi, ieri uno ha avuto un infarto a Treviso, ha fatto il tempo prima di morire a accostarsi e a non dar fastidio al traffico. Guarda, perché? Mi ha fatto tanto pena. Perché tu letto. Pensi che Quirico non va, invece uno. Ma io, ma Quirico non gli ho mai detto una. Non ho mai insultato Quirico. Come volete far litigare con quel, fermala, con quel Cristo di Quirico? Non, che c'ha non Quirico? Che c'ha? Che c'ha? Ma niente, che c'ha? Hai paura di Quirico? Io ho paura di Quirico. Hai paura di Quirico? Ridere, hai Quirico paura fa di Quirico? Fermo là, fermo. Ma i camionisti sono bravi. Io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Su piazzaitalia.it acquista comodamente online tutta la moda che vuoi. La Zanzara. Girl, I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar. Adesso ci prova la Rom, deve andare a casa tua. Assumi la Rom, assumi la Rom, assumi la Rom, assumi la Rom, assumi la Rom, assumi la Rom, italiani! Resta sempre vivo, resta sempre vivo questo argomento, Davide, non sfuggi, non si sfugge qui, non si sfugge. No, mi pare abbiamo superato, questa petizione non ha alcun valore, ho mobilitato anche gli ispettori internazionali che ovviamente hanno certificato. Devi assumerla, devi assumerla per un motivo molto semplice, anche per una questione ormai di diritti umani. Cioè Costei è in Bosnia, rischia seriamente nei campi rom, come hai sentito da lei, la vita. Dunque si agisca immediatamente per togliere Zabaeta, detta anche Sabaeta, da quell'inferno. L'unico che puoi farlo Zabaeta. Allora ragazzi, questo che state per ascoltare è fondamentale. Trattasi di una dichiarazione di intenti, trattasi di un manifesto, trattasi della più lucida analisi e dell'impotenza maschile o di problemi di impotenza, fatta dal signor Rocco Siffredi in esclusiva per la Zanzara. From Budapest, Rocco Siffredi, come risolvere un problema in esclusiva. Ha mandato a noi messaggi. Stavo ascoltando la Zanzara ieri mentre parlavamo delle onde d'urto. Stavo ascoltando la Zanzara mentre. Ma chi sei, Watergate? Ma che dici? No, che c'è? In esclusiva, certo. La Zanzara parla. Ma che esclusiva, ma assoluta? Parla? Esclusiva, ma assoluta. Che cos'è? Ma che documenti Rocco hai? Ma che, Siffredi? Cos'è il dossier Moro? Ma no, è Rocco Siffredi, dai, ma di che parli? In esclusiva, esclusiva Rocco Siffredi. Di beh, come un signore, un porno star che ti ha mandato un messaggio signore, e tu dici un signore qualunque, ma tu non gli arrivi nemmeno alle ginocchia, è un signore che anziché lavorare con il cervello lavora con una egregiamente con un'altra parte del corpo. Bisogna lavorare anche, per fare quello che fa bisogna lavorare anche col cervello, non ti preoccupare, e lo sai benissimo. Rocco sembra lo sai bene. No, che c'entra? Fermi tutti, Rocco Siffredi, l'impotenza maschile, i problemi di impotenza e il bosco. Avete capito tutto? Già, comunque sentiamo. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Allora, ascoltate, io ho sentito ieri che ci sono 3 milioni, oltre 3 milioni di persone che hanno dei problemi di erezione in Italia. E voi sapete che il problema è grave. Io ho però la soluzione. ce l'ho la soluzione, voi lo sapete che sono in questo settore da tantissimo tempo e so cos'è una mancata erezione. Ragazzi, dobbiamo fare una petizione, una raccolta firme, bisogna rimboscare, basta disboscare, cioè ragazzi, dobbiamo tornare al pelo, il pelo, l'eros, l'erotismo, la sensualità, la donna vera, il pelo. Tutti gli uomini si fanno crescere la barba, le donne si sbarbano. Cioè, capite che c'è un problema? Io ve lo dico, petizione, rimboschiamo le donne, rimboschiamole, perché questa è la vera sensualità, la vera sessualità, è tagliatevi sta cazzo di barba. Uomini, uomini, donne, donne, datemi retta e tutto si riaddrizza. Questa è la prima parte, David, mi sembra eccezionale. C'è anche un secondo capitolo, cosa secondo c'è da aggiungere? Secondo capitolo un po' più hot, un po' più hot. Ecco, quindi non lo trasmettiamo. Ma come no? Come no, amico mio? Ma come no? Ma qui non ci si fa mancare nulla. Ma ho tagliato una piccolissima parte, siccome non era live in diretta, una piccolissima parte che ho reputato inutile, perché comunque si capisce. Guarda che non ho detto una cazzata. Il disboscamento crea problemi di erezione, ma molto molto gravi. Guardate che io faccio questo lavoro, sono sui set dalla mattina alla sera. Cioè, e purtroppo si è perso un po' quel lato lì. Il centro dell'universo, voi prendete l'Amazzonia, cioè senza il polmone muore, cosa muore? Il mondo. L'Amazzonia è un polmone. Guarda caso a cosa assomiglia l'Amazzonia. Pensateci un attimo, non è che ci vuole tanta fantasia, eh? L'Amazzonia è il centro del mondo, la figa è il centro del mondo, l'abbiamo disboscata e adesso abbiamo dei problemi. Attacchiamoci al cazzo, cioè voglio dire, è semplice. È facile il problema, molto molto facile da risolvere, è semplice da risolvere ragazzi, quindi rimboschiamo queste fighe pelate e rendiamole pelose, vedete che tutti i cazzi si drizzano, parola di Siffredi. Sembra che dico delle cazzate, ma credetemi, voi prendete una donna e mettetegli il pelo e vedete il cazzo come va su. Cioè, ci siamo abituati male, stiamo crescendo, stiamo andando a finire in un mondo di merda. Ragazzi, rimettete il pelo, rimettete il pelo, facciamo una petizione vera, non sto scherzando, rimettiamo il pelo. Ecco, voglio fare un partito politico, pelo per tutti, ok? Adesso mi sa che ci penso seriamente, pelo per tutti, so pure con chi mi alleo. Anzi, chi si allera con me? Beh, amici miei! Amici miei! È un tema, mi pare. Mi sembra fondamentale. Eccessiva il paragone con l'Amazzonia, no? No, quello bellissimo, mi pare, invece. Questo mi pare invece. Forse che, un che po'. Mi pare invece che questa roba qui dell'Amazzonia sia fondamentale per una cosa, perché ti fa capire che in quella testa lì non c'è semplicemente la cosa trombare, ma c'è anche del ragionamento. Com'è che fai? Può essere anche Allora ragazzi, ho letto oggi, c'è un manuale che insegna il sesso halal, The Muslimah Sex Manual, una guida per colorare il sesso coniugale nel rispetto dei dettami della religione islamica. Cioè, hanno fatto uscire un manuale, un libercolo di 65 pagine per i musulmani, e che dovrebbe coniugare i precetti dell'Islam, che sono molto severi da questo punto di vista, come sapete, al sesso tra coppie evidentemente islamiche. Interessante, molto interessante. Ma abbiamo qui una professoressa, una sessuologa, caro Parenzo, di una certa fama, che ha fatto uno studio sulle donne islamiche e il sesso in particolare e l'orgasmo. Molto interessante questa cosa qui. Si chiama, fermi sì, tutti, no, ascolta, fermi ascolta, tutti. Ascolta. Devi ascoltare bene, devi ascoltare bene. La dottoressa è Giuliana Proietti, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Bene. Allora, lei è psicologa, mi sembra, e anche sessuologa, o sbaglio? Sì, psicoterapeuta e sessuologa. Benissimo, molto questa bene, ricerca che lei bene. Ha fatto, che lei, come dire, ha fatto propria, non so se l'ha fatta lei direttamente, ma di cui ha parlato. Ecco, infatti non è mia. Non è sua, che ricerca è? Tra le donne iraniane, mi sembra, no? È uno studio iraniano sulla sessualità delle donne musulmane. Recente? Sì, sì, recente. Recentissimo. Dunque, quante donne musulmane sono state interpellate, iraniane, in questa ricerca? Guardi, adesso questo non me lo ricordo, chiaramente. Vabbè, qualche però migliaio, si può vedere, spero, no? Su Clinica della Coppia, che è il mio sito, dove c'è appunto questo articolo. Benissimo. Allora, praticamente lei che cosa si dice in questa ricerca? Si dice, in sostanza, che le donne musulmane, mi corregga se sbaglio, hanno problemi di orgasmo. Giusto? Sì. Si dice in questa ricerca che le donne musulmane, come tutte le donne del mondo, direi, hanno problemi di orgasmo. Solo che le donne del mondo occidentale possono fare delle terapie sessuali abbastanza esplicite, dove si parla di sessualità e si insegna alla coppia o alla donna che cosa fare per migliorare il piacere sessuale. Mentre per le donne musulmane c'è questo problema, perché c'è questa religiosità che ha effetti significativi sulla comprensione della sessualità. Ci sono alcune modalità tabù, alcuni tabù, diciamo, alcuni tabù abbastanza espliciti, per cui insomma ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi. Dunque, sostanzialmente, dai problemi di orgasmo che sono presenti, da quello che sembra, no, in una società musulmana, almeno tra queste donne che sono state come dappertutto, le donne iraniane però hanno difficoltà a uscire fuori. Cioè, sostanzialmente, queste donne qua, diciamo islamiche per semplicità, dottoressa, e queste donne islamiche hanno problemi di orgasmo perché alla fine non si possono masturbare, o sbaglio? Sì, perché è uno dei divieti dell'Islam, perché non si può fare sesso extraconiugale, non si può fare sesso anale, non si può fare sesso durante le mestruazioni, non si può guardare la pornografia, non si può fare sesso durante il Ramadan, insomma ci sono tutte queste... sono una serie di impedimenti, e dunque le donne islamiche hanno questo tipo di problema, che è molto più grave presso quelle società rispetto alle società occidentali, perché noi, insomma, se uno ha dei problemi di quel tipo magari può guarire, tra virgolette, o sbaglio? Sì, può guarire, mentre invece in questa situazione dove non si può affrontare, diciamo, esplicitamente una terapia sessuale, che peraltro è basata su molti esercizi di masturbazione, quindi questo chiaramente questo è uno dei divieti. Cioè, secondo lei, da un problema di orgasmo si esce con la masturbazione? Questo è importante, fondamentale. Beh, non secondo me, ci sono delle terapie. Io lo so, sono ignorante da questo punto di vista. Mi prenda come un ignorante da questo punto di vista. Se una donna, anche perché non sono una donna. Falsa modestia. Allora, non so, perché non sono una donna. Lei ha un'esperienza diretta, naturalmente, anche primo perché è donna, secondo perché è sessuologa. Ecco, allora la prendo per un ignorante. E allora le spiego che quando si va in terapia sessuale si fa la seduta e poi ci sono degli esercizi a casa, quindi a seconda del problema della coppia si può ricorrere alla masturbazione, si può ricorrere a una focalizzazione sensoriale. L'esercizio a casa è interessante, dottoressa Proietti. Cioè, qui stiamo parlando di una cosa. Cioè, lei, per esempio, nella sua esperienza. Sono sicuro, no? Che Cruciani entrerà nel merito degli esercizi a casa. Nel senso, nella sua esperienza personale da sessuologa, lei ogni tanto consiglia, se viene una donna da lei, no, non facciamo né nomi né cognomi, viene una donna da lei e dice: guardi, io ho problemi di orgasmo, cioè non riesco a venire. E lei consiglia la masturbazione? Questo è interessante. Beh, guardi, certamente bisogna capire perché la donna non raggiunge l'orgasmo, perché problema suo, di tabù, eccetera, ma può essere anche un problema relazionale, perché magari l'uomo non è abbastanza attento nei suoi confronti. Questo è vero, mettiamo che l'uomo sia capace, diciamo, no? Si mette sempre dalla parte di quello che abbiamo. Mettiamo che l'uomo sia capace, cioè, partiamo da questo presupposto, diamo per scontato questo, perché altrimenti c'è un altro problema, cioè scegli un altro e vai con un altro che invece ti fa venire, diciamo. Ma no, infatti, se mi posso permettere, gli uomini molto spesso parlano di queste donne che non raggiungono l'orgasmo usando ancora il termine frigidità. E invece il problema è loro, spesso. Mentre si deve parlare di anorgasmia, nel senso la donna non raggiunge l'orgasmo, però non è perché lei è frigida, ci possono essere una serie di problemi, fra cui anche problemi di relazione, perché magari l'uomo... Non c'è dubbio, non è capace a farla venire, diciamo. Oppure non è abbastanza attento. Che praticamente è la stessa cosa, nel senso che non è attento, come dire, ai punti nevralgici. Fermi tutti. Mi sta scrivendo il dottor Picardo, il giovane Picardo, leader dei giovani musulmani. Mi è incazzato come una bestia. Il quale mi dice: ma scusa, mica la masturbazione nella coppia è vietata nell'Islam, ma che dice? Tre punti di domanda. Quindi il dottor Picardo ci conferma che in realtà presidente realtà, delle comunità di giovani islamici, che in realtà appunto all'interno della coppia la masturbazione, questo è giusto per fare coppia chiarezza, islamica naturalmente, sì, coppia islamica effetti, è possibile. In effetti questo è giustissimo, però in alcuni casi è necessario che la masturbazione non avvenga a livello di coppia ma avvenga a livello individuale, per certo, conoscere bene il protocollo. Ti è Piccardo prendi questa, no, nel senso che è voluto intervenire per dire ma non è vietato all'interno della coppia, ma qui stiamo dicendo un'altra cosa, è vietato come dire da single, come dire, no, è vietato a livello individuale. Piccardo, arrenditi, qui noi siamo libertini, siamo soprattutto liberali, pensiamo che la donna si possa masturbare anche da sola, secondo voi no, invece secondo tu no, secondo te no, Piccardo? Signora Proietti, allora torniamo al punto fondamentale, poi chiudiamo, cioè più masturbazione per tutti, diciamo questo come slogan, ecco, diciamo, che mi piace molto questa te. Senza esagerare però, adesso ultimamente con questa pornografia e con questa tendenza degli uomini a masturbarsi, poi dopo alla fine hanno un calo del desiderio e perdono delle disfunzioni sessuali. Cioè, lei dice che la pornografia, questo ormai è stato accertato. Pensare al caso di Andro Mercù, ad esempio, che è uno dei nostri collaboratori, quello che fa gli scherzi adesso, alla Zanzara. Lui soffre moltissimo di questa cosa perché è uno dei più grandi. Se voi andate a verificare gli accessi dall'account del Sole 24 Ore, troverete sul computer dell'ottimo Mercù accessi a YouPorn. Ma non è vero, questo poi lo cacciano. Deve fare gli scherzi telefonici e non c'è perché è in bagno, dice, e in bagno a fare che cosa la live della diretta della Zanzara. Non la buttiamo come al solito in cacciara. Però purtroppo, no, è un fenomeno molto diffuso. E l'hai buttata tu in cacciara. Bisognerebbe dire non masturbatevi troppo. Però allora, per le donne islamiche, dottoressa Proietti, per concludere, le donne islamiche si dovrebbero masturbare. Piccardo scrive: a Cruciani piace da solo. Voglio dire che le donne islamiche lo debbano fare, io dico che tutte le donne dovrebbero avere una maggiore, non masturbarsi, ma conoscersi, sapere quali sono le loro zone erogene. Masturbarsi, lei capisce che per gli uomini è molto più semplice perché le cose ce le hanno davanti, mentre invece le donne le devono andare un po' a cercare. In che senso, scusi, questa cosa qua mi risulta un po' noi uomini abbiamo il pisello davanti, d'accordo, ma andare a cercare, lei dice, i punti nevralgici, diciamo, il clitoride, dice lei, no? La sessualità femminile è un po' misteriosa, no? Anche per le donne stesse. Dottoressa, lei è stata molto chiara, anche il suo tono così mi è piaciuto molto, l'abbraccio fortissimo, ragazzi ci dobbiamo lasciare, però la rinviterò un'altra volta su qualsiasi tema, non si preoccupi, l'abbraccio, la saluto. Più salve, masturbazione per tutti, donne islamiche, masturbatevi da sole, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda.